I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. L'accordo raggiunto abbastanza sorpresa ieri a Vienna tra i paesi produttori di petrolio che aderiscono all'OPEC e i paesi fuori dall'OPEC è importante sia per gli effetti che ha già avuto e avrà sul prezzo del petrolio, ma anche in prospettiva per l'evoluzione della situazione economica generale. L'accordo prevede la riduzione complessivamente di 1.200.000 barili al giorno di petrolio, quindi si scenderà dagli attuali 33 milioni a 31 milioni e 800 mila. L'accordo è stato raggiunto grazie a un rush finale in cui i due sfidanti, ossia i sunniti dell'Arabia Saudita da un lato e gli sciiti iraniani dall'altro, hanno fatto ambedue un passo indietro e hanno sbloccato quello che sembrava un impasse difficilmente risolvibile. Buona notizia per i titoli energetici a partire dall'italiana Eni, Saipem e Tenaris, e infatti la borsa ieri ha festeggiato. Vista però in prospettiva, questa notizia assume un altro significato. Abbiamo detto per mesi che nell'ultimo anno si erano verificate delle condizioni perfette dal punto di vista esterno dell'economia. L'euro si manteneva relativamente forte sul dollaro, ma il petrolio continuava ad essere intorno ai 40 dollari al barile. Le altre due condizioni si chiamano tassi di interesse praticamente a zero in Europa e l'aiuto che Mario Draghi fornisce con 80 miliardi di euro ogni mese alla liquidità dei paesi della moneta unica. Ebbene, due di questi fattori nelle ultime settimane sono già mutati. L'euro si sta indebolendo nei confronti del dollaro per via della politica espansiva di Trump e, con la notizia di ieri, il petrolio non avrà più prezzi così accomodanti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Uno spettro si aggira sull'Italia, ma non è quello del comunismo, esorcizzato Marx. Lo spettro del populismo è il nuovo incubo dei governi europei e soprattutto di quello italiano, la cui sopravvivenza sembra sempre più legata all'esito del referendum di domenica prossima. Come finirà è un punto interrogativo, e il rischio che gli italiani escano dalle urne ancora più confusi di quando sono entrati è altissimo. Accuse personali, minacce di denuncia, scenari apocalittici, smanie di vendetta hanno messo gli italiani l'uno contro l'altro, costellando così la campagna referendaria fin dal suo avvio. Il solo risultato, vista la sostanziale stabilità dei sondaggi, è stato quello di trasformare il più importante esercizio di democrazia diretta in uno scontro ideologico e politico, le cui finalità hanno avuto spesso poco a che fare con la modernizzazione della Costituzione, l'interesse degli italiani e quello del Paese. In questo contesto è persino difficile fidarsi dei sondaggi, che già in altre occasioni hanno dimostrato di non saper interpretare i sentimenti degli elettori. Nel dubbio ci si affida così agli indicatori non ufficiali, come l'andamento dei mercati finanziari, borse e titoli di Stato. E che cosa dicono i mercati? Bene, a giudicare dal rialzo solitario messo a segno ieri dalla borsa italiana, l'unica ad essere salita in Europa, il fronte del sì dovrebbe essere in vantaggio su quello del no, visto il sostegno dato finora dai mercati e dagli investitori alla necessità delle riforme strutturali in Italia. Ma attenzione, anche prima del voto in America o di Brexit, le borse erano salite contando sulla vittoria della parte uscita poi sconfitta. La confusione insomma altissima, compresa quella sui mercati, che da parte loro non sono né buoni né cattivi, né di destra né di sinistra, vogliono solo le migliori condizioni per investire. Ma il paese non è un bond e il voto non è un derivato. Quando si entra nell'urna, il voto segue solo la coscienza. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.